Yeah! Sono uno scherzo della natura. Sì, e questo è il remix. Tre gambe. Con Ivan, anch'io lo sono. Ho la voce di Habibbo, ma non Pippo. E lo so, Boaz Crank, Ricca. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Quando stavo peggio, quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Ho masturbato mio fratello in un campeggio. Sto picchiando i miei coglioni con un secchio. Ho 30 anni buttati nel cesso. Ogni volta che salivi in macchina puzzavi come dopo l'ora di ginnastica. Ho raccolto i tuoi capelli con la plastica. Li trapianto sulla testa con la forma di una svastica. La sfiga mi ha salvato, l'infarto si avvicina. Una supergina vuole sale da cucina. Gli do la trementina, la porto giù in cantina, la sevizia con la lima. E mio padre è morto sulla neve. A 9 anni ho scoperto il pene. Mi danno il Viagra effetto placebo. Mi fanno una flebo, mi taglio le vene. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Quando stavo peggio. Quando stavo peggio. Urla troia, lago in gloria. Voglio andare in paranoia. Ma stavo meglio quando stavo peggio. Somiglio se mi guardo nello specchio. Un guardone mi fissava in quel parcheggio. Ho donato tutti gli organi e galleggio. Ho firmato con la EMI così per passatempo, sì. Ecco le ragazzine, tutte coca e alcol, figurine. Vanno in bagno con le amiche. All'oratorio fa le dive. Ogni 2 per 3 sono in ospedale. Ogni 2 per 3 c'è una baby gang nel locale. Mi sono travestito, ho baciato un uomo e all'uscita l'ho investito. Guarda, forse ho un tumore. Spendo tutto in poche ore. Forse ieri ti ho messa incinta. Ho l'AIDS, come vuoi la tomba? Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Quando ma stavo come peggio, cazzo stai, Omli? Il prossimo remix è Ansiolo. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Quando stavo peggio. Quando stavo peggio. Stavo meglio quando stavo peggio. Mi hanno lasciato sanguinante in un parcheggio. Ho un naso rotto e sembra il centro di Viareggio. Se mi guardi in faccia ricordo Ezio Greggio. La maestra mi picchiava. Il braccio mi legava al banco che tagliava.